A portata di click. Bentornati a ClickArt. Come promesso, oggi continueremo a parlare di... Ma che diamine è quel coso? Non offenderlo! Non è un coso! Anche lui ha dei sentimenti. Ok, non è un coso, ma allora cos'è? Aia! Vedi? Mi fai male! Graffia anche. Ma è un gufo! Guarda che non è mica un goggetto volante non identificato, eh. È una civetta. Sì, ok, sei ripetitivo. Guarda un po' cosa ha sulla zampa. Aspetta che provo a prenderlo. Ah, ai ai! Aia! Ah, aiutami! Ah, leggilo tu. Parrebbe essere una lettera mandata da un nostro fan. A quanto pare ti hanno preso sul serio. Modestamente. Ah! Viene da Hogwarts. Mi pare di averlo già sentito da qualche parte. Si vede che non leggi molto. È la scuola di Harry Potter. Che nome stupido! Comunque avrei dovuto riconoscerla, questa è la sua civetta. Ok, Vabbè, continua a leggere. tranquillo. Dice: "Buon salve Clickart". È proprio un fanatico il tuo amico latino! Latino? Sì, Harry Potter! Leggiamo, va. "Sono un vostro fan e volevo raccontarvi che ho visto nella mia sfera di cristallo che oggi avreste parlato di scene erotiche. È proprio vero? Saluti, Harry". Questo è proprio un pervertito. Oppure le zampacce della sua civetta! Oh! Ai ai, guarda che graffia! Avranno rovinato la lettera e tu hai letto erotiche al posto di eroiche. No, ha previsto bene e la civetta non c'entra nulla. Oggi parleremo per l'appunto, grazie Harry, della tomba dei tori situata nei Monterozzi. Ma io non mi capacito. Scene erotiche, monti maleducati, tutti insieme! Sti etruschi. Ricordiamo che la necropoli dei Monterozzi è situata a Tarquinia e comprende tra le altre tombe come... Ehi, vuoi dirlo tu? Quella degli auguri. Ecco, bravo. Come dicevamo, comprende anche la tomba dei tori. Non dici niente? Non vuoi provare a indovinare? No, no, stavo pensando alle scene che abbiamo definito erotiche. Cosa c'entrano coi tori? Adesso te lo spiego. Questa tomba ha una pianta... È ancora viva? Una sequoia? Ma lo vuoi sapere o no? Dicevo, una pianta piuttosto articolata. Il, lo, la, i, gli, le, un, una, un con l'apostrofo, poi... Basta! Allora, una pianta piuttosto articolata con una vasta anticamera e due stanze minori di fondo. Le sue decorazioni sono il primo esempio di un grande impiego della pittura nell'arte funeraria etrusca. Infatti, la parete di fondo della camera principale è finemente decorata, nella parte inferiore con una scena mitologica che rappresenta l'agguato che Achille tende al principe troiano Troilo. Che pizza questa civetta. Aspetta, non è la civetta! Oh, oh, sveglia! Sì, Troilo, sì. Sì. Ecco spiegate le scene. Perché? Non è mica detto che veniva da Troia. Guarda che sto attento io, Però non c'entra nulla. In realtà, al di sopra delle porte troviamo il fregio. Dov'è? Dov'è? Al ladro, al ladro! Qualcuno l'ha fregiato! Come non lo vedi? Ah, ho capito. Che tristezza. Comunque, è proprio questo il fregio che cercavi. Esso è infatti decorato con tori alternati a gruppi erotici. Che oscenità. Ma va, la cosa più importante di questa tomba in realtà è... Apriamo il televoto! Guarda che non siamo in TV. Come no, Antonella! Vabbè, mandiamo la pubblicità. Gran sole, grande ser che io vorrei. Hai finito? Ah, scusa, hai ragione. Stop al televoto! Dai la risposta, Antonella. Vabbè, solo perché mi pagano. Allora, la cosa più importante è l'evidente influsso dell'arte ionica, frequente in tutta l'arte etrusca di questo periodo, ossia fra il 600 e il 500 a.C. Complimenti al nostro amico Agilulfo dalla provincia di Canicattì, che si porta a casa un poster del fregio della tomba dei tori. Complimenti ancora, linea al TG1. Mi pagano troppo poco. Bentornati a ClickArt. Perché mi fissi in quel modo? No, niente. Le decorazioni di questa tomba non sono qualitativamente molto elevate e rivelano l'incapacità del pittore di adattarsi a una scala molto grande, suppongo per salire sul tetto. Dio che ci speravo! Stavi facendo un bel discorso. Vabbè. Infatti, si è ipotizzato che l'artista fosse un ceramografo abituato a dipingere piccole figure sui vasi, non grandi figure sull'intonaco, un composto di argilla mista a roccia macinata ricoperta da uno strato di calce. Sull'intonaco veniva effettuato il disegno preparatorio, che veniva poi ripreso da netti contorni in nero. i colori erano sciolti in acqua e si fissavano sul supporto ancora umido per mezzo della reazione chimica della pittura a fresco. Sembri tornato quasi normale. Scossa? Ok, mi ero sbagliato. Hai ragione, perché scossa! Punti il dito contro? Contro il Citaredo. Ok, Citaredo, scegli A, B o... No, aspetta, chi è il Citaredo? È una delle figure rappresentate su una delle pareti laterali della tomba del Triclinio. Che si trova a Tarquinia e presenta sulla parete di fondo scene di un banchetto. A cui partecipano uomini e donne. Maria, però se non mi fai parlare qui io non è che posso dire, devi intervenire, cioè, non so. Sdraiati sul clinai e circondati da suonatori e inservienti, con davanti piccole tavole con sopra le vivande. Ai lati invece si trovano altre figure riccamente abbigliate e guidate da un flautista e un citaredo. Ah, ecco dov'è il nostro amico. Allora, la A, la B o la C? Sullo sfondo si notano alberi e volatili. Lo stile sembra rifarsi all'arte severa e i volti documentano un tentativo di introspezione più approfondita nella figura umana. Rimangono caratteristiche arcaiche, che però passano in secondo piano rispetto a una composizione raffinata ed equilibrata anche dal punto di vista cromatico. Ma perché non raffigurare dei nelle tombe? Perché l'arte si pone al servizio degli aristocratici, che celebrano la loro potenza non tanto raffigurando divinità legate di più alla sfera religiosa, ma tramite rappresentazioni soprattutto mitologiche, che celebrano la grandezza, le qualità e i valori che erano cari all'aristocrazia. Ne so meno di prima, ma va bene così. Per oggi è tutto, linea allo studio. Ma cos'hai oggi? Arrivederci, alla prossima! Ciao! L'arte a portata di click.